24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Ci siamo. Un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté. Contre des journalistes. On est tous français. Et je pense qu'en président du Conseil des ministres, comme aujourd'hui je vais pas simplement donner la solidarité. Proprio no, non volevo rientrare così, cari ascoltatori. Eccomi qua. Sono rientrato. Sono le 6:33 minuti di giovedì 8 gennaio e rientriamo con questo attacco terribile alla Francia, all'Europa, a tutti noi. Un attacco militare, in stile militare vero e proprio, quello ieri alla redazione di Charlie Hebdo a Parigi, e tutto il giorno ovviamente ieri che ne parliamo qui a Radio 24, ne parla tutto il mondo. Nella notte sarebbe stato fermato, cioè è stato fermato uno dei tre presunti attentatori che al grido di Allahu Akbar, Dio è grande, hanno attaccato uccidendo 12 persone. Molti giornalisti, ma anche due poliziotti, uno, vabbè, quello che è diventato già l'emblema di questo attacco terroristico, freddato a terra mentre chiedeva pietà, alzato questa mano, no? Ed è stato freddato da uno dei due che si vedevano con in braccio un Kalashnikov, no? Che si muovevano con un stampo militare, chiaramente con un'azione di tipo militare, un'azione, qualcuno dice, di guerra, una vera e propria dichiarazione di guerra, paragonabile a quella dell'11 settembre. E infatti i titoli dei giornali sono proprio questi. Vedo La Stampa, attacco al cuore dell'Europa, Il Sole, Parigi sotto attacco, Il Corriere, attacco alla libertà di tutti, Repubblica, jihad, massacro nel giornale, il sangue sulla libertà del Fatto Quotidiano. E vabbè, poi ci sono ovviamente le polemiche, e ci saranno indiscutibilmente anche, guardate il titolo di Libero, mette proprio l'emblema dell'uccisione di questo poliziotto con le braccia alzate poco prima che venga freddato, e il titolo è "Questo è l'Islam". Ecco, non è così, nonostante le polemiche. Anch'io ieri che ho incrociato su Twitter con alcuni che, come al solito, diranno dell'islamofobo, eccetera. Non è così, non è questo l'Islam, ovviamente. E però la polemica c'è. Sono le 6:35 minuti, ben ritrovati, questo è 24 mattino. Saluto Lorenzo Nespoli in redazione. Saluto l'alpino Peter Bescapè in regia, sono qui con un battono da un po' di giorni, più di me, va bene. Allora, che dobbiamo fare? Dai, apriamo subito il Parlamento. Il Parlamento è sempre quello, Sì, il Parlamento c'è. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Va bene. il caffè del ministro Boschi. E chi ritrovo? Beh, intanto ritrovo persone che su questo tema, perché di questo tema vogliamo parlare soprattutto, possono dire qualcosa di intelligente, come sempre. Mariona Dinolfi, ciao, come stai? Buongiorno, buongiorno, eccomi qua. Eccoci qua, quasi in rampa di lancio col tuo giornale, La Croce Quotidiano, dal 13 gennaio, in edicola, ricordiamolo. E, tra l'altro oggi c'è anche una cosa interessante, più avanti vedremo, proprio che ti riguarda su Repubblica. Saluto anche Aurora Lussana, direttorissima, buongiorno, come stai? Eccomi qua, buongiorno a te Milne, come sempre un caro saluto ai tantissimi amici di Radio 24. Cosa stai ascoltando ancora? Starei mica ascoltando Radio Padania, no? No, mi sembra giusto oggi guardarmi un bel cortometraggio che potete scaricare solo attraverso internet, perché hanno ritirato ovviamente la proiezione a suo tempo e quindi è difficilissimo da reperire il cortometraggio. Submission. Di Theo Van Gogh. Ecco, di Theo Van Gogh, anche lui ucciso, sì. Ricordiamo per questo, per aver fatto questo. Allora, La domanda è secca, la faccio. Mario Dinolfi, è guerra questo? È un attacco, è un'azione, è una dichiarazione di guerra? E poi se è guerra da parte di chi dichiarata? E contro chi questa diavolo di guerra? Beh, mi meraviglio che ci accorgiamo oggi che c'è una guerra. Insomma, è evidente che da tempo c'è una porzione non irrilevante dell'Islam, non l'Islam in sé, ma una porzione molto rilevante dell'Islam, che ha individuato nella radice cristiana dell'Europa fondamentalmente il nemico, e uccide dal Pakistan alla Nigeria, all'azione incredibile dell'ISIS, e ha come caratteristica quella di essere terrore, è un suo elemento, cioè non è negabile evidentemente questo. Ora arriva questo fronte dentro casa nostra, perché questa è la notizia di ieri, cioè quello che di solito vedevamo come lontano, per certi versi esotico, ma insomma l'abbiamo visti i nostri colleghi decapitati, no? Cioè non è una cosa che è lontana, ed erano occidentali, a questa era tagliata la testa in un video che ci è stato mandato a casa. Insomma, abbiamo visto i cristiani crocifissi in Pakistan, c'è una cristiana in carcere da 5 anni perché ha bevuto un bicchiere d'acqua e c'ha 5 figli, si chiama Asia Bibi. Cioè esiste questo fronte aperto da un'enormità di tempo. Il problema è ragionare sul perché, cioè, perché se non ragioni sul perché, se non vai in profondità rispetto a questo elemento, e se non eviti soprattutto l'islamofobia, cioè l'idea di mettere immediatamente in campo lo scontro di civiltà, qui il discorso è veramente complesso. No, ma tu dai per scontate, Mario, dai per scontate alcune cose. Io ieri su Twitter ho scritto queste cose, ovviamente nella complessità di scrivere anche queste cose in 140 caratteri. Subito mi hanno attaccato. Allora, io non sono d'accordo col titolo di Libero, questo è l'Islam. Non è questo l'Islam, cioè quello che uccide Fred. Non è questo. Lo so anch'io che la stragrande maggioranza degli islamici, dei musulmani, sono persone che professano loro fede, chi non la professa è laico, chi vuole vivere normalmente, avere le proprie aspirazioni, come tutti noi. Ma vogliamo dire che c'è un problema con tanti o pochi, non lo so quanti siano, che appartengono a quella specifica religione e che interpretano in maniera distorta quella religione e ci sparano in faccia solo per il fatto di non essere come loro? Sembra di dire una bestialità. È una ovvietà che vediamo tutti i giorni, sembra di dire una bestialità. Ora vorrei però, Aurora Lussana, tu fai la brava, non iniziare a tirare dentro adesso gli immigrati clandestini che non c'entrano niente. Vabbè, però questa è una tua fobia, scusa. No. Prevengo già. Aurora, come dobbiamo affrontare? Vedi che mi fai censura preventiva? Ma no, che censura? Sembri Bush con i talebani, sì. Guerra preventiva, fai la Lussana. Fai la brava. Io sono molto tollerante perché ho letto poco fa uno stralcio del trattato sulla tolleranza, ecco, di Voltaire, che è la nostra rovina, infatti, perché ormai la tolleranza è diventata apatia e indifferenza. Ma come la rovina, Voltaire? Quello del tutto ciò che vuoi, poi posso essere contrario a tutto quello che dici, l'importante è che... loro però sterminano chi ride del loro Maometto. Capito, così. Ma bisogna essere orgogliosi del nostro progresso, eh? Ma dobbiamo anche difenderlo il nostro progresso, perché sennò qui con quell'apatia che c'è in giro alla fine tolleriamo anche questi maomettani qui che per difendere il loro credo, l'Islam vieta le immagini, vieta ovviamente una vignetta e ha paura di chi ride del loro profeta, e allora dobbiamo dirlo che questo Islam è incompatibile. Ma certo, ma questo Islam, cioè questo, quei tre lì che pensano di interpretare l'Islam, certo che sono incompatibili con chiunque, anche con i musulmani. Nel 2015 in Italia le comunità islamiche non sottoscrivono alcuna intesa con il nostro Stato, perché? Perché non ne condividono legittimamente i principi. Bisogna anche accettare, Milan, che ci siano i maomettani che odiano i cristiani, gli infedeli, le donne che guidano, ma dobbiamo come accettiamo l'amore, dobbiamo accettare l'odio. Questi ci odiano, è legittimo. Sì, ma questi chi? No, perché qui la questione poi è, Aurora, questi chi? Ma anche chi non sottoscrive un'intesa con lo Stato italiano e pretende di costruire le moschee, cioè non riconosce i principi sovrani della nostra comunità, però qui vuole creare delle enclavi islamiche che poi magari sono l'anticamera della Jihad. Quindi perché non sottoscrivono le intese? Perché non condividono i nostri valori, legittimo, ci odiano, legittimo. Sì, ma sai, il dire ci odio, cioè è un po' vicino a quello che scrive il libro, non so. O ci considerano infedeli da convertire, ma però tu capisci che è importante distinguere tra chi e chi? Ma cioè non è, perché sennò dici, anche in Italia, ma ho capito, vuol dire che c'è qualcosa che non condividono. Ho capito, ma così si rischia di mettere nel mucchio tutti. Sì, ho capito, sono tantissime comunità, ce n'è una che sottoscrive le intese, no. Perché? Marione, qua che si fa? Perché adesso, come al solito, oltre allo sdegno, oltre al cordoglio, oltre all'azione da fare nei confronti di queste tre persone, poi è domani che si fa, dopodomani che si fa, perché riparte la questione, come scrive appunto Libero, aveva ragione Oriana Fallaci, ci odiano, però sai, messa così, ci odiano, che vuol dire? Qua si ragiona in profondità, cioè questo è veramente un meccanismo che ha a che fare con un tentativo per una volta di uscire da questo maledetto derby, je suis Charlie, no, non sono Charlie, e la guerra, veramente questo non serve. Cioè, qui il problema è analizzare con un minimo di profondità la natura dell'Islam, evidentemente. Allora, il Dio dei cristiani, come sappiamo, come ce lo insegna il catechismo, è logos, cioè ragione. Nella dimensione islamica il Dio è inconoscibile, non può essere ritratto, è estremamente lontano, è di fatto non razionale. Noi siamo fatti, ce lo insegna questo catechismo, a immagine e somiglianza di Dio, cioè Dio ce lo immaginiamo con la barba bianca, è antropomorfo. Nella religione islamica questo non è. C'è stato un momento della storia recente di questo nostro benedetto rapporto con l'Islam in cui un papa un po' particolare, che è Benedetto XVI, andò a Ratisbona e fece un discorso e disse: finché l'Islam non si farà attraversare dall'illuminismo, cioè dalla ragione, sì, noi non riusciremo a costruire quel ponte, il pontefice fare ponte. Allora, capito, ma non è che uno può cambiare le religioni o... No, ma questo è il punto, cioè il cristianesimo, che come ogni religione ha avuto i suoi elementi di integralismo, è stato attraversato dalla modernità. L'Islam, per bocca dei suoi capi, deve riconoscere la necessità di essere attraversato dalla modernità. Il problema è come li individuiamo i capi, perché per esempio con la Chiesa Cattolica è abbastanza facile, c'è una gerarchia, un papa, i cardinali, fai. Lì è estremamente più parcellizzato, ma se non riusciamo a parlare con... Cioè Papa Francesco è andato in Turchia e ha detto: alzate voi la voce contro la violenza, e noi possiamo fare tutti gli esercizi che vogliamo qua, Alessandro, ma se i capi dell'Islam non alzeranno fortemente la voce contro la violenza, e se noi non daremo forza e riconoscibilità a quei capi islamici che lo faranno, noi ci ritroveremo in una condizione che è questa, perché è, come dire, innestato nello stesso concetto di Dio che hanno, nello stesso concetto di parola, cioè di Corano, scritto a lettere di fuoco dal profeta direttamente da Dio e dunque non interpretabile. Ricordiamoci la differenza. i cristiani interpretano la parola, gli islamici non la possono interpretare perché il Corano è da intendersi in senso letterale. Intanto però è fantastica questa cosa, perché ieri mi scrivevano molti su Twitter dicendo che ero un islamofobo, adesso mi dicono, perché discuto un po' con Aurora Lussana, che non ho il coraggio, non ho le palle e andare contro l'islam, sono quelli che ragionano con due neuroni, o è bianco o è nero. Questo è il social network del derby, qui il ragionamento deve essere un filo più completo. Ma certo, no, ma sono quelli con due neuroni, o bianco o nero, sei pro o contro l'islam, così, come se fosse il Milan, la Juve. Roma-Lazio. È una cosa folle. Vabbè, intanto... Siamo su questo piano, è folle. No, ma è chiaro, non si può fare un ragionamento un po' più profondo e dire delle cose. Comunque, cioè si può, tranne che per questi. 24 mattino. Siamo qui, dai, niente segreteria, che non dobbiamo perdere tempo, stiamo parlando di cose serie e non di minchiate. Capito, Aurora? No, ha ragione Dinolfi, anche sul dialogo, a parte che si dialoga per addivenire a una verità, se uno ce l'ha già la sua verità. Sì, però tu Aurora, la dissimulazione che è tipica del mondo. Però tu Aurora hai un po'... Loro condannano a parole la violenza, però i credenti che non si allenano con i miscredenti, e quindi loro magari vanno nelle trasmissioni, dicono no, vergogna, contiene la violenza, però stiamo attenti. Però di fammi capire, Aurora, perché tu parli un po' come il titolo di Libero, cioè tu ti identifichi con il titolo di Libero, questo è l'Islam, perché capisci che è una generalizzazione. Io capisco che... Ma l'Islam odia anche gli islamici, perché quello lì che hanno ammazzato... strada era un poliziotto di fede. Sì, non gli hanno chiesto la carta d'identità prima di sparare. Esatto, no, ma nel senso, ma figurati, ma loro odiano noi infedeli, ma alla fine ne ammazzano giù tanti anche dei loro fratelli islamici. Però o ci mettiamo d'accordo, cioè che la nostra civiltà, che è quella che è passata anche dall'oscurantismo cattolico, perché anche per la religione cattolica non si poteva ridere di Dio, perché se ridevi voleva dire che non avevi paura, timore di Dio. Il ridere è critica e decostruzione, vuol dire ribaltare il reale, e in qualche modo pensavano fosse anche peccato ridere, no? E quindi noi con questo oscurantismo abbiamo fatto i conti, abbiamo fatto un percorso, e o siamo qui a difendere questo laicismo che a volte è anche un po' esasperato, che però, ripeto, permettere di ridere del Papa che si bacia con le guardie svizzere, permettere di ridere di Allah e degli ebrei, ecco, o siamo tutti d'accordo che ma non siamo tutti d'accordo, evidentemente. E se non siamo tutti d'accordo, e allora che ci No, ma infatti la questione è questa, non che ci sia lo scontro, ma lo scontro o la guerra c'è da parte di alcuni, dichiarata da parte di alcuni, evidentemente. Però Mario, tu parli tanto del dialogo, eccetera, ma dialogare anche con i leader religiosi, islamici, ma non credi che non dico che sia vano, ma sia un po' due livelli separati quasi, no? A voler dire, perché che vai a dialogare con questi qui. Mi rassegno alla idea che non si possa fare ponte, perché se noi rinunciamo a questo, noi prepariamoci a fare le barricate, perché l'assedio ci arriverà dentro casa. Allora noi o riusciamo a disarticolare il meccanismo violento che c'è nel cuore della religione islamica, perché c'è ed è disarticolabile. Io sono convinto che, come ho detto prima, con gli elementi di ragione questi fattori possono essere disarticolati, perché se non ci mettiamo su questo piano, se non ci mettiamo a studiare bene chi sono, poi dal punto di vista operativo diventa anche andare nelle moschee, seguire i sermoni, seguire gli imam, capire chi sono i predicatori, capire chi sono i predicatori d'odio, cioè tutto questo. Aurora, ma tu dici non vogliono, come se fossero tutto un nucleo. Non si trova l'accordo per sottoscrivere intese, non c'è un regolamento per l'edificazione delle moschee. La libertà di culto è una roba, salvo intese, però non è che tu fai delle enclavi islamiche dove parlano. Cerchiamo di ragionare su cos'è la religione islamica, capendo la religione islamica. Perché se questo lavoro non lo facciamo, ripeto, se noi non centriamo la figura di Dio, non capiamo che sì. tipo di ricaduta immediata ha rispetto a un povero pastore. Sì, tu dici siamo sì, spacciati. Mentre siamo qui a capire, a comprendere la loro teologia. Non è comprendere la loro teologia. Ripeto, noi siamo abituati a un Dio che è... Ho capito, ma Aurora, allora scusa, no, però aspetta, Aurora, per concludere questo discorso... No, ma la teologia è una roba... No, però dimmi un attimo, tu che cosa faresti? Cioè, dici, mentre noi stiamo qui a cercare di dialogare, fare ponti, loro ci ammazzano. Quindi, cosa fai? Esci fuori col Kalashnikov e vai a cercarli? No, per capire. No, la legittima difesa credo che sia... Sì, ma questo sì, certo, ma la legittima difesa, sì, se uno... arrivano lì in redazione da voi, mi auguro che difendiate, no? Ma questo è chiaro, se beccavano quei tre i poliziotti, dovevano sparargli e cercare di ucciderli prima. Questo sì, però siccome non si può... Allora, siamo tutti d'accordo, la legittima difesa, la violenza si può usare, ma siccome non sai dove colpiscono, siccome non sai, non puoi in questa guerra simmetrica sapere se domani colpiscono in un supermercato o allora che cosa fai nel frattempo? Militarizzi tutto, cosa fai? Di sicuro controlli i jihadisti di ritorno, i foreign fighters, quelli reduci che arrivano, sì, un minimo di, magari gli mettevi una pattuglia fuori dal giornale che dal 2011 che sono sotto attacco. Senza dubbio anche questo, infatti ci sono polemiche. Se si mettono loro a fare la guerra in casa nostra, hanno già vinto, perché noi siamo talmente vigliacchi che ieri non l'abbiamo trasmessa quell'immagine lì cruenta, perché non si deve far vedere che l'Islam è spietato. Quindi qualcuno l'ha trasmessa, abbiamo già perso gli altri, ma no, hanno già vinto loro. Se domani si mettono a fare qualcosa in casa nostra, che armi hai? No, ma è chiaro, ma anche perché se uno fa un attentato così, colpendo un obiettivo senza sapere, è quella guerra contro un nemico un po' sfuggente, sconosciuto, non è che poi... Poi sono divisi fra di loro, perché se non è un esercito che sai dov'è. Magari ce l'hanno anche con l'ISIS, questi qua di ieri, per far vedere che sono più forti dell'ISIS, ieri hanno attaccato... Parigi, bisogna che loro sono. Bisogna vedere. Chi lo sa, intanto noi ne parleremo, c'è la rassegna stampa alle 8:15. Ma Maria Dinolfi, ne approfitto. Ma che è successa questa cosa? C'è un convegno della regione Lombardia, ci sei anche tu, è successo un casino. Hanno semplicemente inventato la notizia che non c'è. Cioè, hanno detto che faremo un convegno per guarire gli omosessuali. Guarire totalmente falso. Cioè, e di che parlerete invece? Come? Di famiglia, perché detto, di famiglia. Come sai, mi sta a cuore. E lo faremo in tranquillità, senza in alcun modo forse neanche toccare la parola sessuale. Però all'Expo si sono arrabbiati. Oggi Repubblica, mai più il logo Expo a convegni omofobi. Adesso Aurora, io non volevo dirlo, però si può dire? Ci siamo già capiti, si può dire? Tu hai detto si sposano solo i gay, si può dire o no? Tu fammi capire solo che ci intendiamo, si può dire o no? Certo che si può dire. L'Aurora Lussana si sposa! E le raura. Ma quando ti... Niente a Pötaegia, sai cosa vuol dire Pötaegia in bergamasco? Cosa vuol dire? Pöta ragazza, Egia, cioè ragazza che è invecchiata senza mai sposarsi. Ma smettila, ma quando ti sposi? A breve, sto organizzando, però prima devo organizzare il comitato contro la moschea a Cantù, quindi prima c'è quella roba lì da organizzare, dopo il matrimonio, perché sennò qui ci si sposa solo in moschea. Vabbè, no, non si sposerà in moschea, si sposerà quest'anno, diciamo, e siete già tutti invitati, amici di 24 Mattino, ve lo dico. Ovviamente in una chiesa, no, con rito ambrosiano. Ma la notizia è questa, a parte si sposa. Caro Mario, Torino, una madre che ha avuto un bambino con la fecondazione eterologa con una donna in Spagna, ora chiede al comune di Torino di registrare all'anagrafe le due madri, capisci tu che continui a dire che c'è una sola madre. Ma la saggezza, lo dico io, la saggezza popolare, di mamma ce n'è una sola, lo dici pure tu. Sì, certo, di mamma ce n'è una sola. La saggezza popolare è una cosa. Ma attenzione, perché al comune di Torino forse dicono siamo pronti a registrare, ma aspettiamo indicazioni da Roma, sappiamo che Alfano è contrarissimo. Ma la legge è la legge di Alfano che è contrario, c'è la legge, non si possono avere due mamme. Eh, lo so, però due figure genitoriali, impara intanto a parlare, due figure genitoriali, non si può più dire mamma, bisogna dire figura genitoriale. Figura genitoriale, sì, sì. Telefonatemi al 334-3798-534 e ditemi se voi volete le figure genitoriali o la mamma. Ecco, io non sapevo se hanno nuovo vita nuova, ma siccome l'hai detto tu, allora 334-3798-534 è il cellulare di Mariona Di Nolfi, sapete, potete... Fate anche gli auguri per la croce, che di questi tempi non pare essere un titolo tranquillissimo, insomma. Esatto, ma tu la pubblicheresti una vignetta satirica in prima pagina? No, sinceramente no, a me quelle vignette non piacevano, erano... Su momento blasfeme e ma ne parleremo, chi seguirà la croce dal 13 gennaio in edicola troverà queste argomentazioni svolte in maniera spero approfondita. Vorrei riuscire a uscire dal derby, ecco, da Roma Lazio, questa esasperante cosa da social network per cui dobbiamo stare con quello o con quell'altro. A me quelle vignette non piacevano, erano brutte e blasfeme, ma possiamo immaginare che per questo allora ci dividiamo sui social tra chi è d'accordo a chi gli sparava, ma no. Allora, semplicemente, però non mi fate dire che quelle erano belle vignette, non lo erano, erano satire estremamente vogliare. E su questo posso essere d'accordo anch'io, satira vogliare, però insomma, viva la libertà. Ovviamente, viva la libertà. Però che devi dire, quindi bimbo nato da due donne, i giudici dicono sono madre entrambe? Bimbi nascono da una donna, non è un dato di anche lì, Dio è Logos, è ragione, ecco, le cose sono quelle che vedi, quelle reali. Va bene, va bene. Dai, Aurora, dammi la ricetta anche nel 2015. Non ho tempo. Oggi ti ho detto, devo raccogliere le adesioni per questo comitato contro la allora costruiscono la moschea a Cantù invece di fare il palazzetto lì della pallacanestro. Io devo fare il comitato contro la costruzione della presidente del comitato no, voglio che aderiscano tutti i cittadini cantini all'ascolto, mi chiamino. No, attraverso il cellulare di Adinolfi e dicano al cellulare di Adinolfi che vogliono far parte del comitato. Va bene, si può fare. 334-3798-534, il cellulare di Maria Adinolfi, aderite al comitato di Lavoro alla Lussana tramite Marione, grazie. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono qui, cari ascoltatori. Sono le 7:17 minuti in punto in questo momento qui a Radio 24. E voi che fate? Noi siamo pronti a leggere i giornali, siamo qui e vi ricordo che parleremo di che cosa? Beh, parleremo di quello che è successo ieri in Francia, ne abbiamo già parlato alle 6:30, il leitmotiv della giornata, il terribile attentato, 12 morti da parte di tre attentatori che al grido di Allahu Akbar hanno sterminato parte della redazione del giornale satirico Charlie Hebdo in Francia, oltre che avere colpito poliziotti, persone che erano lì per caso. 12 morti. E i giornali sono tutti con le aperture su questo, con chi declina sullo scontro di civiltà, chi è più duro, chi parla di attacco alla libertà, ma andiamo a scoprirle. Questo giovedì 8 gennaio, tra l'altro, avremo ospiti, vi ricordo, Alessandro Sallusti, direttore del giornale, Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, avremo il nostro Vincino, uno dei vignettisti più celebri in Italia, che parlerà insomma di questa tragedia vista anche da uno che ha vissuto e vive con la matita in mano da decenni per fare satira. Allora, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, Parigi sotto attacco, strage in redazione a Charlie Hebdo. Il Corriere della Sera, attacco alla libertà di tutti. E c'è da dire che tra l'altro tutti questi articoli, tutti questi titoli sono sotto la foto emblematica, la foto che è diventata già storia, e cioè l'istante prima dell'uccisione a freddo di quel poliziotto Ahmed, che era per terra, implorava pietà a uno degli attentatori e costui gli ha sparato in testa col Kalashnikov. Tanto che Libero

Allah è grande e cancellando questa cosa. E beh, non si può non dire, non si può far finta di nulla. Quelle persone, probabilmente distorcendo la religione a cui appartengono, pensano di essere degli ottimi musulmani, di dovere uccidere una persona che fa una vignetta o più persone che fanno delle vignette, perché questa cosa secondo il Corano non si può fare. Vogliamo parlare di questo e lo facciamo con Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi. Così come con Alessandro Sallusti, direttore del Giornale. Eccoci qui. Buongiorno. Buongiorno. Tu direttore Sallusti, oggi l'hai messa questo aggettivo islamici accanto alla parola macellai e hai firmato anche un editoriale molto duro, un editoriale in cui parli di guerra. Perché questa sarebbe una guerra e contro chi questa guerra? Beh, questa è una guerra contro l'Occidente ed è l'embrione, la novità è che è l'embrione di una guerra civile, perché non siamo di fronte a dei kamikaze invasati che arrivano dalle loro roccaforti per farsi esplodere un'Europa. No, qui siamo di fronte a musulmani europei di seconda e terza generazione che hanno deciso di fare guerra all'Europa, quindi è una guerra tra europei, se vogliamo essere politicamente corretti, e questo bisogna prenderne atto. Prenderne atto e fare che cosa? Perché se poi le persone dicono vabbè, c'è una guerra, però una guerra, come si dice, asimmetrica, non è che c'è un esercito ben definito che è lì schierato e contro il quale si possono mandare dei controeserciti. Per qualcuno addirittura sarebbe sbagliato avere una risposta, come dire, militare di questo tipo. Però che cosa si può fare? Perché anche qui si sono sentite le cose più astruse. Per esempio, la più incredibile è stata: dichiariamo fuori legge l'Islam in Italia. Credo che qualche leghista abbia detto una cosa del genere. Ma no, io non credo che una religione possa essere messa fuori legge, però fuori dalle ipocrisie, e questo è un problema islamico, perché questa nascondersi dietro il paravento che esiste un Islam buono. Ecco, bene, questo Islam buono faccia quello che deve fare contro l'Islam cattivo, perché anche noi abbiamo avuto dei muri, l'Occidente ha creato dei mostri. Pensiamo a Hitler, pensiamo ai mostri che abbiamo avuto, ma li abbiamo combattuti noi occidentali, non è che abbiamo affidato ad altri il compito di liberarci dal male che avevamo al nostro interno. A me sembra che questo Islam buono continui a dire no, ma noi siamo buoni, e ho capito, ma quelli sono figli vostri, quelli li avete generati voi, quelli li ha generati una interpretazione, secondo alcuni corretti, secondo altri no, dei vostri testi sacri. Quindi o fate qualcosa per debellare dal vostro interno questo estremismo, oppure siete complici degli estremisti, non c'è una terza via. È la mancanza, insomma, di un dibattito anche all'interno dell'Islam. Molti fanno notare in realtà che ci sono state delle prese di distanza dopo questa terribile tragedia. La stessa domanda la faccio ad Antonio Padellaro. Oggi il titolo del Fatto Quotidiano è Sangue sulla libertà, che mi sembra molto azzeccato, proprio il fatto dell'espressione della libertà, che soprattutto con la satira vive una delle sue massime espressioni nel giornalismo mondiale, che viene messa sotto attacco. È una guerra questa, Padellaro? No, non è una guerra e non è neanche un embrione di guerra, è terrorismo, che è una cosa diversa dalla guerra. Ed è il terrorismo in questo caso, stiamo guardando la diretta della cattura, speriamo rapida, dei tre assassini, uno il fratello minore che non ha partecipato al massacro e si è già consegnato, quindi stiamo parlando di una minicellula familiare, lupi sciolti, cani sciolti, come volete chiamarli, i quali hanno agito certamente, avranno avuto le complicità, vedremo, la polizia francese in questo momento, non prima, sta lavorando bene. E quindi direi che purtroppo si tratta di la conseguenza, diciamolo chiaramente, visto che il conduttore ci chiede di non essere ipocriti, sì, ma prima di tutto di una mancanza, di una carenza dei sistemi di sicurezza francesi. È incredibile, incredibile che un settimanale satirico preso di mira da anni, gli hanno fatto esplodere una bomba distruggendo la redazione, fosse sorvegliato da due poveri agenti buttati là in una macchina, lì bisognava assolutamente creare delle situazioni di sicurezza che non sono esistite. Questi due, abbiamo visto, hanno agito con una libertà, con una tranquillità totale, perché sapevano che nessuno li minacciava. Punto primo. Punto secondo, io oggi parlo nel mio editoriale di stupidità del terrore. Se i terroristi volevano, come dire, intimidire, mettere all'angolo la libertà di espressione, oggi Charlie Hebdo, che fino a ieri, diciamo la verità, era un settimanale conosciuto ma non popolarissimo, è diventato il giornale più importante del mondo. Sì. Quindi l'effetto della loro azione è questa. Io sono poi infine d'accordo con Sallusti quando dice che l'Islam ufficiale, formale, che certamente non ha nulla a che vedere con i terroristi, non se la può cavare con la solidarietà dell'ultimo momento, no? Non va bene, non c'è stata, diciamo la verità, non c'è stata un'azione in questi anni di contrasto culturale, mediatica, in cui gli imam, ma anche personaggi dell'Islam, abbiano detto: questi sono i nostri nemici principali, anche perché... No, non l'hanno mai fatto, sì, c'è solidarietà, sappiamo, sì. No, cioè... ma volevo dire una cosa, come sappiamo le vittime, il numero di vittime principale di questi assassini sono gli islamici stessi. Su questo non c'è dubbio, c'è la guerra da sempre tra sunniti e sciiti. Però una parola, io vedo questi personaggi che per bene, che vengono in televisione a dire solidarietà, ma non basta. Non basta, devono prendere delle proposte di posizioni molto forti, altrimenti questi signori che vanno a sparacchiare a destra e a sinistra si sentiranno coperti. Sì, c'è da dire che già su una posizione appunto siete divergenti, insomma, per Sallusti è chiaramente una dichiarazione di guerra, come è titolato oggi sul giornale, per Padellaro invece non è questa guerra, ma sono atti di terrorismo. C'è da dire che effettivamente, come diceva il direttore Padellaro, una delle persone che è stata, si diceva prima, fermata, in realtà si è consegnata spontaneamente, questo Hamid Murad, che viene considerato il complice dei due fratelli franco-algerini che sono entrati dalla Siria, in realtà si è consegnato lui spontaneamente quando ha visto il suo nome circolare e pare avesse un alibi di ferro, nel senso che ieri mattina era a scuola quando è successa questa vicenda, 18 anni, quindi anche mistero su chi siano effettivamente questi che hanno colpito. Però Sallusti, vorrei tornare, perché nell'editoriale io ho letto delle frasi anche molto dure, cioè per esempio quando scrivi che il mandante secondo costoro che sono intervenuti ieri era Allah, ecco, allora io dico, per loro Allah è il capo dei terroristi che vogliono sopprimere le basilari libertà dell'Occidente. Non c'è in questo il rischio di, come si dice in questi casi, cadere nel tranello di queste persone, di voler radicalizzare lo scontro? Secondo me noi, l'Occidente, sta cadendo nel tranello di evitare questa conclusione, perché non sono io dico che Allah è il mandante di quella strage, sono loro che lo dicono. Loro, mentre sparavano a uno alle 11 per 12 persone che hanno ucciso, dicevano, urlavano, l'abbiamo sentito con le nostre orecchie, che lo facevano in nome di Allah. Ora, per cui sono loro che dicono che Allah è il loro mandante, non è che sono io. Allora dobbiamo prendere atto di questo, perché è vero che sono cani sciolti, ma questa storia dei cani sciolti a me ricorda quella dei compagni che sbagliano ai tempi delle BR. Beh, i compagni che sbagliano hanno ucciso decine e decine di persone, hanno messo in ginocchio un paese, volevano creare il terrore. Io non penso di andare lontano dalla realtà o dalla verità dicendo che in queste ore, in questi minuti, questi due killer in fuga hanno protezione all'interno della rete del mondo islamico. Io penso esattamente quello e credo che sarà dimostrato che è così. Quindi è ora di finirla di dire: ma l'Islam è buono. No, c'è un Islam feroce, macellaio e cattivo che vuole impossessarsi delle nostre libertà. Ma tutto e noi l'Islam le stiamo cedendo anche. Ma io non credo tutto non c'è niente. Tu, anche dei nazisti, c'erano dei nazisti buoni, ma non per questo non erano nazisti, voglio dire. E allora i nazisti buoni avrebbero dovuto combattere essere i nazisti cattivi. Non è che tutti i nazisti erano dei carnefici di ebrei o cose di questo genere, però erano complici di questa gente. E questa è la differenza tra l'Occidente e l'Islam. Combattiamo i nostri carnefici. Su questo punto, Padellaro, è questa credo la cosa sulla che vi distingue di più. Io dico questo: l'Occidente è forte, piantiamola con questa storia dell'Occidente molle, l'Occidente è forte perché ha la struttura di sicurezza e di intelligence, porca miseria, per beccare questi qui prima che si mettono in azione. E la prima domanda che dobbiamo farci è per quale cavolo di motivo, scusate se mi altero, che queste persone hanno potuto agire indisturbate quando si sapeva, ripeto, che l'obiettivo era quello. Secondo, guardiamo l'Occidente, a questo punto è evidente che ci saranno dei ricatti politici. I ricatti politici sono a favore del Fronte Nazionale della Le Pen. Sì. E a questo punto io dico che se l'attuale premier francese, presidente della Repubblica francese, Hollande, uno dei peggiori premier della storia della Francia, ha portato la Francia in questa condizione, mi dispiace dirlo, io la penso completamente in maniera opposta alla Le Pen, ma in nome c'è una democrazia, e se la Le Pen vince le prossime elezioni adesso regionali, vuol dire che la sinistra non ha saputo fare il proprio dovere sul piano della sicurezza innanzitutto, perché ha tutti gli strumenti e tutti i mezzi per stanare questi assassini. Terzo punto, Saluzzi si richiamava alle Brigate Rosse, è verissimo, si parlava di cani sciolti, ma fin quando lo Stato italiano non è stato capace di contrastare le Brigate Rosse, questi hanno fatto stragi, hanno ucciso, hanno rapito. Quando finalmente lo Stato italiano ha cominciato a organizzare la propria sicurezza, le Brigate Rosse sono state spazzate via. Non esistono guerre, esistono gruppi terroristici che possono essere spazzati via se c'è la volontà politica di farlo. Allora, tra l'altro, tra 3 minuti, quando entriamo dopo la pubblicità, ci raggiungerà anche Vincino, spesso nostro amico, anzi è già con noi Vincenzo, buongiorno, ciao Vincenzo. Ciao. Ti chiedo 3 minuti, sì. 3 minuti perché c'è la pubblicità. Io ho colto nelle vignette che anche tu hai pubblicato oggi sul Foglio, una nelle quali ti rappresenti e scrivi: mi trovo vecchio, disperato e disarmato, mai così triste, mai così determinato. Ecco, triste e determinato al tempo stesso, è la satira che è stata colpita, è la libertà, una delle sue forme di espressione più geniali, più straordinarie, quella della satira che è stata colpita, e da te voglio ripartire tra un attimo insieme a Sallusti e Padellaro, state con noi. 24 mattino. Siamo qui alle 8:36 minuti, allora io... devo dire, mi avvicino anche per l'amicizia, l'affetto, con grande circospezione a Vincino, un uomo che spesso, col quale spesso ridiamo, scherziamo, Vincino, facciamo satira, tu soprattutto fai satira anche per Raggi, di questo ti ho mai ringraziato abbastanza, delle vicissitudini quotidiane che viviamo, della politica che ci accompagna tutti i giorni. Oggi è un giorno diverso, Vincino, no? Sì, è vero, hai ragione, è un giorno diverso. È un giorno in cui alcune persone sono state cercate volutamente, uccise perché hanno fatto delle vignette. Tu alcune di queste persone le conoscevi anche personalmente, so che una ha collaborato con il male. Conoscevo Volischi, no? Ho un debito enorme nei confronti di Charlie Hebdo, nei confronti dei disegnatori di Charlie Hebdo, perché sono stato a convincermi dell'enorme libertà del racconto di satira, dell'enorme capacità narrativa. E difatti il male ha copiato tante cose da Charlie Hebdo, proprio lo bevevamo noi, intere rubriche, ci arriviamo sempre davanti a tutto. È terribile, cioè, pensare. Un giornale di satira è un tutt'uno in un certo senso. Cioè, mi è piaciuto oggi leggendo su un giornale i nomi e poi c'era un grafico. No, questo grafico era uno importante, anche lui come gli altri. Da noi i grafici hanno inventato i falsi del male, sono stati inventati da un grafico. Devo andare, scusate un attimo. Sì, sì, perché sei in taxi, so che ti stai spostando. No, ma certamente c'è questa distinzione. Vogliamo ricordare, sono stati uccisi anche due poliziotti, è stata uccisa anche un addetto delle pulizie, è stata uccisa anche una persona che era lì, economista. Ma chi partecipa a un giornale di satira, cioè ci partecipano tutti, un giornale di satira o meno al male erano, come dire, erano tutti, non c'era uno che è là perché non aveva un lavoro, no, erano tutti partecipi a questo progetto, loro hanno colpito il giornale, il centro, il progetto, il giornale da cui è partito tutto. Senti, dagli anni 70 parte la nuova satira, parte da là, da Charlie Hebdo. Certo, Vincino, prima di presentarti due ospiti che ti stanno ascoltando, sono due ospiti, anzi li voglio già salutare. Uno è Abu Ali Shuaima, che è il presidente del Centro Islamico di Milano e imam di Segrate. Buongiorno Shuaima e benvenuto. Buongiorno. E uno è Ejaz Ahmed, giornalista pakistano e fa parte, è membro della Consulta Islamica in Italia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Vincino, tu fai parte e fai vignette anche per Il Foglio, soprattutto quotidianamente per Il Foglio, il cui direttore Giuliano Ferrara anche oggi ha scritto, al termine di un lungo editoriale in cui parla di quello che è successo, la frase che già scrisse un po' di tempo fa, e cioè: l'unica risposta alla forza intimidatrice dell'Islam califfale è una violenza politica, militare, tecnologica e civile incomparabilmente superiore. Già per questo ci furono polemiche allora. Secondo te qual è la risposta giusta, Vincino? C'è satira. La mia risposta è la risposta di, cioè, loro lì hanno pagato perché non hanno ceduto un metro, un passo, loro sono, non si sono fatti intimidire, no. Come dire, se loro non si sono fatti intimidire non mi faccio intimidire, sono andato avanti a disegnare, a fare il loro lavoro, e il nostro lavoro è quello di disegnare e raccontare. E il racconto di satira è un racconto di verità. È un racconto di gioia, è un racconto di allegria, un racconto, ma è un profondo racconto di verità in un certo senso. Però qui c'è un aspetto interessante che coinvolge una religione. Per esempio, Ali Abu Shuaima, glielo chiedo apertamente, perché ho visto anche un'intervista a Izzedine Elzir, che è il presidente dell'UCOI, dell'Unione delle Comunità Islamiche, anche oggi sul secolo XIX, a dire: non si può fare satira, non si può rappresentare il profeta e non si può fare satira sul Corano. Cioè, una vignetta su Maometto viene accettata da un musulmano? Ma noi adesso non siamo nel tempo di polemizzare per cose che davanti, diciamo, spargimento di sangue, ammazzare di persone che non possono nemmeno assistere. Quindi io non voglio fare polemiche su questo. Io dico, quelle che hanno fatto questo attacco vile da condannare per due motivi. Prima, perché hanno spargio di sangue di persone e hanno fatto un atto, diciamo, contro la libertà e contro, diciamo, la stampa e tutto quanto. E il secondo, perché proprio hanno messo i musulmani e l'Islam negli occhi di quello che non conosce bene l'Islam, sì, come fosse l'Islam colpevole. E quindi noi lo condanniamo doppiamente. Però lei le ha sentite anche lei le esclamazioni mentre appunto facevano questa azione, cioè Allah è grande, urlavano. Lei cosa può dire appunto di fronte? Ma vedi, tutti anche questi, diciamo, terroristi, di qualsiasi bandiera che sono, di qualsiasi religione che ci sono, pensano di fare il bene, fare il bene a loro modo, naturalmente sbagliando, e quindi pensano di fare al nome di qualcuno, ma l'Islam non ha dato l'autorità a questi di parlare al loro nome. Sì. E l'Islam possiamo prenderlo come reagito il profeta sallallahu alaihi wasallam, cioè il benedetto, e quando i meccani della mesicredenza al suo tempo l'hanno attaccato dicendo che lui è matto, dicendo anche di cose più terribili delle vignette eccetera, ma ha reagito con dire Dio perdona. Però scusi, perdona. Mi faccia capire, lo so, senza polemiche, però anche senza ipocrisie, quindi è sbagliato certamente uccidere per una vignetta, però mi può spiegare perché, che cosa c'è di considerato blasfemo nel fare una vignetta, fare satira anche sul profeta Maometto? Cioè che cosa, proprio ce lo spieghi dal punto di vista della religione islamica, in che cosa è blasfemia? Ma per la religione islamica non si può rappresentare, diciamo, una persona che viene stimato per quello che ha fatto, per quello che ha insegnato, eccetera, sono ridicolo. E questa è una cosa. Questo dovrebbe valere anche per Gesù, a dire allora, che non bisogna presentare una persona come io, non posso ridicolizzare sull'Olocausto. Non si può ridicolizzare su cioè non si può ridicolizzare una persona che è il centro della religione, cioè che il suo insegnamento, diciamo, è un bene non solo per i musulmani per tutta l'umanità, come insegnamento di pace e di fratellanza e di e anche di, diciamo, di dialogo. Vorrei porre la stessa questione a Ijaz Ahmed, al quale chiedo che effetto le fa leggere alcuni titoli. Per esempio, prima avevamo il direttore del giornale Sallusti, che ha titolato oggi sul giornale "Macellai islamici". Addirittura invece Libero si è spinto, secondo me, oltre, mettendo la foto di quella uccisione del poliziotto a terra, e il titolo è "Questo è l'Islam", un titolo molto molto forte. Ijaz Ahmed, lei che pensa? Ahmad è uno dei poliziotti morti, esatto, per salvare questi giornalisti. Io sono giornalista, prima di tutto difendo la libertà di stampa, e difendevo anche in Pakistan, sono andato via dal Pakistan per colpa dei fondamentalismi. Bisogna distinguere, adesso è arrivato il tempo, di fondamentalismo e estremismo. Non bisogna dire più la parola estremismo islamico o fondamentalismo islamico, non è islamico, l'Islam non è fondamentalista, l'Islam è una religione universale. Noi musulmani abbiamo sempre vissuto con i induisti, con i buddisti, con i cristiani, abbiamo tanti valori che possiamo usare oggi, anche vivere con gli occidentali. Su questo non c'è dubbio, però sa, prima... Sicuramente io penso che la grande cosa da fare è di aprire il dialogo all'interno dell'Islam. Appunto, perché prima sia Sallusti che Padellaro hanno fatto notare che non ci sono state, a parte voci di condanna, un grande dibattito all'interno del mondo musulmano, che ricordiamo coinvolge più di 1 miliardo di persone nel mondo, cioè a dire è da voi, dalla vostra comunità, dalla vostra grandissima comunità che deve partire la prima condanna e la prima ferma risposta nei confronti di queste persone, non da parte dell'esterno. Guardi, io sono arrivato al punto che cioè, cominciamo da Salman Rushdie e poi l'uccisione di Gongov in Olanda e così via, ci sono anche altri tanti esempi, ma noi dobbiamo imparare di vivere in mondo occidentale, di accettare questi nuovi valori, di emancipare l'Islam. L'Islam che abbiamo portato oggi dai paesi di origine. Sì, ecco, questa è la breaking news. Dico anche alla redazione, se ci sono notizie, stiamo parlando di questo, entrate pure in diretta con noi e così magari approfondiamo. Perché come avete sentito ci sarebbe una nuova sparatoria in corso proprio alle porte di Parigi, c'è un poliziotto a terra. Quindi, insomma, vedete, la situazione è continuamente in evoluzione. È molto confusa. 24 mattino. Allora, Vincino, sei ancora con noi? Sì, so che ti stai spostando, eccoci qua. No, sono arrivato. Sei arrivato. Allora, ti posso fare questa domanda in maniera diretta. Hai sentito anche due rappresentanti della comunità islamica di diversa estrazione. Perché in Italia non si fanno vignette? O ti chiedo anche tu, la faresti una vignetta su Maometto? Sì. Assolutamente sì, ma le abbiamo fatte, assolutamente sì. Noi nel male eravamo, come dire, siamo allievi di Charlie Bidò, ma nel mare ne abbiamo fatte tante, tutti, come quando c'è stata la guerra Iran, Iraq, ci sono delle rappresentanze, noi ce la prendiamo soprattutto con il Papa e i nostri, e il Papa a quell'epoca era Wojtyla, no? Con i nostri, sì. Ma perché la satira in realtà è con la religione, c'è cioè proprio è un contra- la satira è, però sai, con la religione islamica è un po', con la religione islamica è diversa. È diverso in che senso? Cioè, è diverso per il tipo di reazione, per il tipo di reazioni purtroppo. Ho capito, ma difatti io non vado a fare un giornale in Arabia Saudita o a Raqqa, no, anche se io faccio giornali in Europa, siamo in Europa, siamo qua nel centro dove è nata la libertà e dobbiamo difendere. In realtà perché non c'era la polizia di fronte a Charlie Hebdo? Perché era stato lasciato così, disarmato? Questa è la vera domanda sulla quale la Francia si dovrà interrogare, cioè, perché è incredibile. Dire, ma era stato attentato, così, minacciato da tutti i lati. Loro con il loro disegno tenevano e non retrocedevano di un paio. E la cosa, dove erano? Cioè, no. È pazzesco, perché peraltro hanno sbagliato indirizzo, fosse stato un solo. Un solo poliziotto davanti avrebbe avuto il tempo di avvertire, non lo so. Questa è la vera domanda sulla quale la Francia si dovrà interrogare. I terroristi che sono entrati in azione sono andati a un civico sbagliato, cioè il numero 6 della via della redazione di Charlie Hebdo, che in realtà è al 10. Hanno chiesto al 6: è qui Charlie Hebdo? E gli hanno detto: no, non è qui. Hanno avuto il tempo di andare allora. Sempre mascherati. Sì. Cioè, evidentemente non c'era nessun tipo di controllo. A parte la guardia, il poliziotto che era la guardia del corpo del direttore, ma che era evidentemente con lui in redazione, questi sono entrati, hanno iniziato a sparare e hanno ucciso anche lui. Ma non c'era una vigilanza armata nei confronti di un giornale che era già finito sotto attacchi, attentati, e il cui direttore era sulla lista proprio dei primi condannati a morte da parte di questi terroristi. E Jad Ahmed, cosa stava finendo di dire? C'è stata questa breaking news, ripeto, c'è una sparatoria di cui per ora non si conosce altri dettagli, se non un agente a terra, poliziotto a terra, questo alla periferia di Parigi. Guardi, io nella mia piccola esperienza di consulta all'angelo del Ministero dell'Interno, io spero che il Ministro Alfano chiami questa consulta, che lui non ha più chiamato a noi per lavorare per un Islam italiano. Noi abbiamo 750 moschee in Italia, sono 1,5 milioni di musulmani. Qui bisogna fare il lavoro per l'integrazione dei musulmani in Italia, e anche i musulmani devono fare alcuni sacrifici per non accettare nuovi valori che non alle volte sono uguali ai nostri valori. Il grande problema è che noi veniamo dai paesi dittatoriali, dove non c'era la satira, dove non c'era pensiero plurale. Questo che manca dentro all'Islam. Io per l'Islam armato non posso fare niente, ma per l'Islam fondamentalista posso fare qualcosa da musulmano. E io vi posso dire che l'Islam fondamentalista da alcune associazioni islamiche è stato portato anche in Europa. Questo ha creato tanti problemi in tutta l'Europa, anche in Italia. Quindi bisogna interagire di questo proselitismo che noi abbiamo portato in Europa, che non funziona. Noi dobbiamo accettare questi nuovi valori legati alla libertà, democrazia, uguaglianza, soprattutto della donna. Questo bisogna dire queste parole. Questo dibattito deve avvenire all'interno della comunità islamica, e per questo Abu Ali Shuaima, al di là del cordoglio, dello sdegno, io non lo vedo questo grande dibattito, questa presa di distanza, che vuol dire anche proprio tagliare i ponti con questi terroristi che ci sono e che si ispirano all'islamismo. Shuaima, ma lei li vede? Lei sbaglia, perché sbaglio. Le chiacchiere una cosa, e di quelle che parlano che non vivono, diciamo, quello che noi facciamo. Come basta quando fanno interviste, parlano a papera senza essere quelli che sono nel mezzo. Io personalmente, come lei sa, sono stato aggredito per la mia vita e ho rischiato anche a morire per quello che insegno nella mia moschea. È vero. E di dire è di state attenti a questi terroristi. Quindi noi di tutti i giorni, di tutte le nostre sermoni, di tutti i nostri insegnamenti facciamo, diciamo, l'Islam come insegna, come ha insegnato il profeta, e non soltanto di dire, di condannare quando ci sono le cose, ma proprio noi abbiamo è questo concetto che è l'Islam pace, che è l'Islam dialogo, e le facciamo in pratica nelle nostre moschee e che facciamo nel dialogare con la Chiesa che vengono da noi, che facciamo di attività insieme, le facciamo anche nell'esulare e quelle che diciamo non credono a quello che insegniamo di pace e di dialogo, e per questo loro sono contro di noi, ci aggrediscono e ci minacciano anche verbalmente e anche come è stato a me, anche materialmente. Sì, quindi lei direbbe che queste persone sono dei terroristi? Che sono persone assolutamente... Certamente, che ha fatto questo attacco, un terrorista che non fa parte, diciamo, dell'insegnamento islamico, anche se reagisce dicendo Allahu Akbar, ma non vuol dire niente, perché ci sono anche quelle che dicono che sono Napoleone, ma non sono Napoleone. Sono dei matti, ci sono dei matti che in realtà non sono dei matti, sono fuori dall'insegnamento islamico. Gente pericolosa che bisogna, non noi facciamo la nostra parte, ma anche come avete parlato prima, e anche la polizia, le forze dell'ordine deve fare la sua parte, perché noi come musulmani non possiamo portare l'armi per affrontare quelli che hanno l'armi. Sì, però facciamo a livello culturale, lo facciamo a livello religioso, sì. Lo facciamo anche nella pratica di praticare il dialogo e la pace. Sì, lei dice fare. non sono parte della religione. Non possiamo fare se non diciamo dire a quelli che hanno di competenza di fare il loro ruolo. Io, Vincino, vorrei chiudere con te. Ma Charlie Hebdo adesso come continueranno in questo giornale? Perché voglio dire, ma è una strage terribile. Hanno ucciso dei grandi vignettisti, hanno ucciso il direttore. Che succederà adesso alla redazione di questo giornale? Grafico, non lo so, però penso che allora io mi considero un allievo, un figlio di Charlie Hebdo, no? E in Francia ci sono tantissimi, ma proprio in Francia c'è migliaia di disegnatori bravissimi cresciuti alla scuola di Charlie e degli altri giornali di satira. Io penso che sicuramente la redazione, quello che rimane, avrà la capacità di rialzarsi e di continuare nel loro racconto. Non posso pensare altrimenti. Io non posso pensare che due mitragliatori possono uccidere delle persone, ma non possono uccidere il racconto della satira, assolutamente. Non succederà questo qua, non ci credo. Intanto, Vincino, ti mando ovviamente un abbraccio, saluto Ejaz Ahmed e Ali Abu Shuaima. I dettagli nuovi di questa sparatoria che c'è a Parigi. Abbiamo sentito prima la breaking news, le agenzie dicono che sono due gli agenti di polizia municipale in questo momento a terra alla Porte de Châtillon a sud di Parigi, ma al momento pare non ci sia nessun legame accertato con l'attentato di ieri, pare che siano vicende diverse. Comunque, i nuovi dettagli adesso nel giornale radio tra pochissimo dopo la pubblicità. Intanto saluto e ringrazio Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè. L'appuntamento è rinnovato domani, 6:30.